Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli. L'Europa dunque che oggi ha in primo piano la crisi ucraina, come sapete nel pomeriggio vertice straordinario dei ministri degli affari esteri convocati dalla responsabile della politica estera comune europea Federica Mogherini, posizioni distanti all'interno circa l'opportunità o meno di stringere sul piano delle sanzioni, idee molto lontano anche da parte dei diretti interessati. L'ambasciatore russo a Bruxelles dice addirittura con un comunicato uscito poco fa che all'interno dell'Unione Europea esiste ormai una consapevolezza sull'inutilità delle sanzioni, un'idea che fa pugni in realtà con quella efficacia, costosa certo, ma proprio efficacia delle sanzioni come strumento di pressione su Mosca. Ecco, in ogni caso la riunione è attesa per il pomeriggio. La sensazione, anche per mediare tra le diverse forze in campo, è che si vada verso un allargamento delle sanzioni individuali, quindi quelle persone che vengono colpiti personalmente dalle sanzioni, ci si riferisce in questo caso alla cerchia più stretta del presidente Putin, ma non appunto a un ampliamento dello spettro e della portata delle sanzioni. Tra gli incontri previsti oggi anche quello tra il ministro ucraino Klimkin, il ministro degli esteri, che ha detto di volere incontrare il nuovo governo Syriza. Insomma, si parla di Grecia in tutti i campi in queste ore. Syriza aveva espresso una ferma opposizione all'idea di ampliare le sanzioni. Adesso, ma invece sugli incontri che riguardano la dirigenza greca e quella europea, sentiamo il servizio di Laura Bettini. Dopo il crollo in borsa, il peggioramento dei titoli di Stato e le ire di Berlino, il vice premier greco Yannis Dragassakis ha tentato di calmare le acque. Dialogo e non scontri e ricatti reciproci, ha detto al termine della riunione della squadra economica. Non vogliamo la rottura, ma nemmeno il proseguimento di una politica che conduce alla catastrofe. Pensiamo piuttosto alla liberazione dell'Europa dai greci, ai quali non dovrà più dare soldi. L'effetto non è stato quello sperato, però. I cambiamenti del nuovo governo non devono andare a discapito degli altri europei, ha risposto il vice cancelliere e ministro dell'economia tedesco Gabriel. I cittadini europei hanno il diritto di aspettarsi che i cambiamenti della politica greca non vengano fatti a loro spese. Per ora Dragassakis ha avuto poco riscontro anche a Bruxelles, da dove il presidente Juncker ha fatto sapere che una riduzione del valore di rimborso del debito della Grecia è esclusa e che al massimo sono possibili degli aggiustamenti, ma senza alterare la sostanza di quello che c'è già. Con uno spread vicino ai 1.000 punti, le uniche soddisfazioni di oggi arrivano dalla borsa, che tenta il rimbalzo, ma dopo il -19% delle ultime 3 sedute, un tentativo è poca cosa. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ora abbiamo invece ospite di Radio 24, di Euronet Plus, il commissario europeo Günther Oettinger, commissario europeo al mercato unico digitale. Oettinger è tedesco, già presidente del Baden-Württemberg. Naturalmente tra i temi di maggiore interesse che lo riguardano c'è quello del roaming. Possiamo sentire Oettinger che già quest'estate diciamo sembrava risolto. In realtà è stato poi bloccato e rimandato, cioè l'idea che in Europa la telefonia sia roaming free. Dice Oettinger su questo tema: non tutti gli stati membri, soprattutto non tutti i cittadini, hanno lo stesso interesse su questo tema. Alcuni hanno dei vantaggi molto chiari, alcuni in realtà degli svantaggi. Quindi quello che facciamo adesso è fare un lavoro di mediazione per trovare un equilibrio tra gli interessi. E la linea comunque nostra è di arrivare alla fine di questo decennio in un'Europa roaming free con appunto 2 o 3 pit stop, così li definisce, quindi soste lungo il percorso. Oettinger parla anche di neutralità della rete, un tema che riguarda invece il rapporto tra i cittadini e le grosse imprese nell'accesso al web, e ribadisce l'intenzione di arrivare a un equilibrio maggiore in tempi molto più stretti per eliminare questo squilibrio di accesso e di potenza partenza di fatto di navigazione appunto tra i privati e le grosse imprese. Questo è dunque il commissario europeo al mercato unico digitale Günther Oettinger, e con lui chiudiamo questo appuntamento di Europa 24. Ritorniamo stasera intorno alle 21.30. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.